Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo argomento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori è l'argomento delle tasse, tanto doloroso quando poi lo quantifichiamo in zeri e in cifre in euro lo è ancora di più. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, i conteggi sono sempre, come dicevo, dolorosi per i bilanci familiari e per i bilanci individuali, sapendo che l'Italia è uno dei paesi d'Europa e forse anche del mondo con la maggiore pressione fiscale. Certo, come hai detto tu, questa volta fare i conteggi è stata la CGA di Mestre, non l'Adico, proprio perché ha voluto verificare, anche loro hanno voluto verificare appunto quanto ogni cittadino italiano versa sostanzialmente al fisco nell'arco di un anno. Certamente un calcolo che viene fuori molto significativo, perché comunque si parla di dati a tre zeri e soprattutto, come hai detto anche tu, l'Italia si colloca sicuramente al primo posto nel mondo per imposizione fiscale che ciascun cittadino versa allo Stato, ed il calcolo è stato fatto rispetto al 1980, quindi il calcolo è stato fatto da circa 30 anni fa e il dato che è emerso è veramente un dato che ci può solamente, se non fa che riflettere. Totale, quindi quanto si paga o quanto si paga in più rispetto al 1980? Allora, per dare qualche dato, il dato che a tutti interessa è che ogni italiano paga 11.629 euro all'anno al fisco, ed è un dato che viene calcolato per effetto delle imposte, delle tasse e dei contributi. Un dato che rispetto al 1980 risulta che praticamente paghiamo 5.272 euro al netto dell'inflazione in più rispetto all'anno di riferimento, e certamente un dato che rispetto a sempre il 1980 fa emergere come l'italiano paga circa due terzi di quello che prende rispetto a quello che gli rimane sostanzialmente a fine mese, per cui credo che a questi livelli si possa solamente cominciare a riflettere seriamente se cominciare ad affrontare una seria politica di defiscalizzazione, almeno per quanto riguarda quelli che possono essere eventuali tasse che tutti quanti, i dipendenti e gli artigiani, sostanzialmente ci troviamo a pagare ogni giorno. 11.629 euro all'anno a testa, questo è un dato medio, come sappiamo poi le medie non traducono e non disegnano bene la realtà, perché li hai citati, insomma, ci sono gli artigiani, ci sono i lavoratori dipendenti e ci sono gli evasori, perché poi in questa media dobbiamo metterci dentro anche la quota per coprire l'evasione fiscale. Come hai detto tu, il calcolo è fatto su un ragionamento medio e certamente per chi è dipendente questo dato qua sicuramente è un dato che è facilmente calcolabile, perché se prendiamo una qualsiasi busta paga e calcoliamo tutto il lordo che una persona paga e va aggiungere tutto quello che uno poi paga in tasse durante l'anno, sinceramente secondo me è anche un dato abbastanza ottimistico. Quello che in più a me fa riflettere è come rispetto all'anno di riferimento in cui la CGA ha voluto fare questo conteggio, l'aumento dell'imposizione fiscale è aumentato del 120%, quindi capiamo come un cittadino rispetto a più di 30 anni fa si trova a dover pagare molto di più. Certo che con questi dati qua il margine per potersi destreggiare o il margine di manovra per poter veramente pensare non solo di mettere via qualcosa, ma anche di far fronte a degli imprevisti, quali possono essere le spese sanitarie, le spese di prevenzione in generale. Oggi sappiamo che per esempio le persone o gran parte delle persone hanno smesso di fare prevenzione e si limitano a curare, e poi noi sappiamo benissimo come la sanità ormai sostanzialmente non funziona più e c'è la necessità di dover ricorrere sempre di più a cure private. Quindi un dato certamente che fa riflettere e sicuramente fa anche preoccupare per quelle che saranno le finanziarie future che l'hanno fatta, pensiamo alla nuova tassa service tax che è stata solo una presa in giro preliminare l'IMU, ma che si ripresenteranno il prossimo anno arricchita anche della nuova tassa che è in vigore, che deve essere ancora conteggiata, di cui il consumatore a dicembre avrà il conguaglio. E poi non dimentichiamo, perché è sparito dal dibattito, che entro pochi giorni, se nessuno fa nulla, ci sarà l'aumento dell'IVA dal 21 al 22%. Ma certo, purtroppo io vorrei anche fare una riflessione e indurre un po' anche le famiglie, gli italiani, anche a ragionare, a riflettere e a ricordare di come è stato deciso l'aumento dell'IVA anche poco più di un anno fa. Si doveva parlare di un contributo del 5% per i redditi superiori ai 150.000 euro netti. Il mondo del calcio ha fatto sciopero per qualche settimana, la gente non è più andata allo stadio, il problema era dover far pagare qualcosa a chi prende molto e di conseguenza hanno deciso di far pagare tutti togliendo il contributo di solidarietà innalzando l'IVA all'1%. Stesso ragionamento è quello che ha fatto questo governo per l'IMU, ha deciso di non far pagare a chi magari ha castelli, regge o case di una certa tipologia, per far pagare a tutti chi magari prima per effetto di tipologia di abitazione rispetto ad altri magari pagava poco o non pagava nulla, anche se però l'IMU comunque dovrebbe essere tolta, perché sulla prima abitazione non sarebbe assolutamente giusto che ci sia nulla. Per cui per l'ennesima volta adesso ci troviamo a parlare dell'IVA al 22%, certamente chi ha la possibilità di detrarla potrà anche contenere o gestire questa nuova finanziaria, questo nuovo aumento, che poi sappiamo che noi in Italia siamo bravissimi ad arrotondare sempre per eccesso, per aumentare l'IVA, di aumentare i carburanti, aumentare tutte quelle che sono le tasse, i costi di alimentazione, dei medicinali, anche di prima necessità. Per cui staremo a vedere, ci auguriamo che veramente questo governo cominci a fare cose seriamente e non preoccuparsi solo dei problemi giudiziari di qualcuno. Situazione che è in evoluzione, e con l'Adico ci ritroviamo per un altro argomento per parlare, attenzione, di farmaci e di in modo un po' particolare. Quindi restate all'ascolto, ringraziamo il presidente Carlo Garofolini, alla prossima. Grazie a te, Nico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.